con Leonardo, artista del Campo Innocente, per presentare Italian Arts United for Palestine. Lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina. Bentrovato. Buongiorno a tutte e a tutti. È Raccontaci questo atto pubblico. una delle tante cose che si possono tentare di fare in questo momento, che ormai va avanti da 2 mesi, un po' disperante rispetto alla situazione a Gaza. È una lettera scritta da lavoratrici e lavoratori dello spettacolo a cavallo tra l'arte visiva e il mondo performativo e teatrale. E ci sembrava importante riuscire a dare un segnale, da un lato, per tutte quelle persone che hanno bisogno di un posizionamento e chiedono un posizionamento politico del mondo dell'arte rispetto a quello che sta accadendo, quindi diciamo una piattaforma, una serie di questioni dentro la quale potersi riconoscere e poter in qualche modo convergere. Dall'altra, una reazione a un mondo dell'arte molto silenzioso, molto silente, che non riesce a fare uno scatto politico di lettura di quello che sta accadendo in Palestina, non legge l'aggressione israeliana come l'ennesimo atto coloniale e quindi il desiderio di, se non altro, tentare di far alzare una voce. Poi, dentro questa complessità che conosciamo e che vediamo, e anche con un'informazione mainstream completamente schiacciata su posizioni filo-israeliane e sioniste, quindi è il tentativo di rompere un po' un muro del silenzio in un altro del campo dell'arte, di silenzio e anche di ritorsione, nel senso, quello che stiamo vedendo è anche che sta in tutta Europa accadendo una serie di ritorsioni su artiste e artisti che si esprimono politicamente rispetto al genocidio a Gaza. Quindi è il tentativo anche di offrire un luogo di dibattito interno da un lato, ma anche di assistenza e di accompagnamento a tutti quegli artisti e quegli artisti che hanno invece il desiderio di posizionarsi politicamente. La scrittura nasce da un confronto collettivo, chiaramente. Sì, questo è anche il perché ci abbiamo messo un po' più tempo, saremmo voluti uscire prima, però invece proprio perché è frutto di un lavoro collettivo, in primis tra AWI, Art Workers Italia e Campo Innocente, diciamo due collettivi anche molto diversi, nel senso che AWI è una realtà molto strutturata che copre il territorio nazionale, che fa un lavoro vicino alla reinvenzione del modello sindacale, diciamo, per il mondo degli artisti. Campo Innocente invece è un collettivo molto più fluido di compagne queer, trans, non binarie del mondo dell'arte, quindi anche con un modello organizzativo molto diverso, e quindi c'è stata una complessità che, come ovvio, è totalmente dentro il tema che stiamo affrontando, ma questo confronto che c'è stato collettivo devo dire che è stato molto, molto generativo. E quindi abbiamo aspettato un po', forse adesso la platea che può accedere e che può entrare in risonanza con quello che abbiamo scritto è forse potenzialmente più larga. Devo dire che sta andando molto bene la raccolta delle firme. Come si è deciso di impostarla, la lettera? È stata il frutto di un lavoro di scrittura collettiva in cui abbiamo cercato, da un lato, di ispirarci alle cose che stavano già accadendo in giro per l'Europa, mentre c'erano già una serie di posizionamenti artistici in giro per l'Europa. C'era un grande fenomeno, anche qui osservabile su scala europea, di istituzioni culturali che avevano, per esempio, riempite le programmazioni degli ultimi anni sul tema del decoloniale e che adesso facevano invece una grande fatica ad esporsi rispetto all'azione coloniale dello Stato di Israele. Una grande paura degli artisti a prendere posizione per paura di ritorsioni nel proprio campo di lavoro. Quindi abbiamo provato a mettere a tema tutto quello che ci sembrava stesse un po' sfuggendo dal dibattito complessivo, tra cui appunto una delle cose per noi più importanti in un punto della lettera è il fatto che riconosciamo che il sistema coloniale che agisce non è soltanto quella colonizzazione molto chiara, evidente, diretta con occupazione di terre che viene portata avanti da 75 anni in quel territorio, ma c'è una forma di soft power molto esteso, se non altro in tutto l'Occidente, che fa sì che si crei una rete di relazioni che si muove a seconda di quello che soggettività vicine a quel pensiero chiamano. E quindi ci rendiamo conto che molte istituzioni culturali non prendono posizione perché prendono finanziamenti dallo Stato di Israele. Quindi questa dinamica qui è una dinamica che va, se non altro, illuminata, e da un lato poi quello che noi invece esortiamo è il boicottaggio, perché se c'è un potere che gli artisti possono avere, oltre a quello di raccontare mondi possibili, è anche quello di sottrarsi e di boicottare laddove non si riconoscono nelle pratiche che le istituzioni culturali che li finanziano portano avanti, con la solita problematica che gli artisti sono sempre l'ultima ruota del carro e la parte più fragile del meccanismo. Quindi ecco, ci sembrava importante offrire una rete di protezione anche e una rete di ragionamento. Vi spingete a prefigurare una possibile soluzione? Questo è un territorio scivolosissimo, è chiaro che la retorica dei due stati dentro la quale forse possiamo riconoscerci tutti ci sembra che stiamo andando nella direzione peggiore possibile, quindi con un di fatto riannessione della striscia da parte di Israele, un controllo Israele che non prefigura niente se non la rioccupazione di Gaza e il restauro di una nuova forma di governo che non è esplicitata, quindi ci sembra che stiamo andando veramente nella direzione peggiore, come anche l'ultimo veto degli Stati Uniti sul cessate il fuoco, un'altra dimostrazione che ci sono dei progetti molto avanzati e che è molto complesso, secondo me, dal nostro punto di vista, riuscire a prefigurare una fine di questo. C'è sicuramente il crollo di alcuni pilastri della cultura occidentale, che erano già abbastanza fragili, ma insomma, ecco che il genocidio in Palestina risottolinea e rimette in evidenza in maniera forte. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Artworkers Italia e il Campo Innocente, così come l'ho detto, si possono cliccare su Instagram e su Facebook e trovate la lettera, la possibilità di cliccare e di firmare come singolo e come organizzazione. C'è da rifirmare, questo lo dico perché stanno un po' sfuggendo, c'è da ricliccare su una mail che arriva subito dopo fatta l'iscrizione al sito web della lettera, quindi subito dopo firmato di controllare la mail per dare conferma, e questo è in questo momento quello che siamo riusciti a fare fin qui. Ecco, quello che stiamo suggerendo è che la lettera può essere uno strumento anche di dimensione performativa per il quale appunto si può leggere all'inizio e alla fine degli spettacoli, un po' in tutte le situazioni in cui ci esponiamo artisticamente, quello può anche essere utilizzato come uno strumento per, con i corpi, poter continuare a ribadire un posizionamento politico. Italian Arts United for Palestine, lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina. Un saluto e un ringraziamento a Leonardo, artista del Campo Innocente. A presto! Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao.